Melog, la realtà condivisa, di Gianluca Nicoletti. Fece molto scalpore alla fine di marzo, quando il caso noto dell'omicidio Meredith di Perugia, con una sentenza alla Cassazione, venne annullata la sentenza che era stata emessa in appello, che riconosceva l'innocenza di Raffaele Sollecito e Amanda Knox. E quindi questo ci dette allora l'occasione per ripercorrere i grandi delitti che in Italia avevano avuto un valore rispetto agli altri, perché erano diventati delitti mediatici, a iniziare dai più noti fatti trattati nei salottini televisivi, all'aspetto di Montecchia di Crosara, in cui Pietro Maso e altri complici uccisero i genitori semplicemente per avere dei soldi per fare una vita più adeguata ai loro modelli estetici. E questo è stato un momento particolarmente interessante, perché gli italiani hanno questa facoltà immensa di essere esperti, oltre che di calcio, anche di delitti, perché la nostra televisione, da un certo periodo in poi, ha stabilito di avere proprio un genere, il genere delittuoso, con plastici, ricostruzioni e tutta una galleria di personaggi che ormai sono diventati gli esperti in delitto. Assoluzione annullata e rinvio degli atti a Firenze, dove si terrà un nuovo appello. Per Amanda Knox e Raffaele Sollecito i problemi giudiziari si riaprono dopo che un anno e mezzo fa, nel processo di secondo grado, erano stati giudicati totalmente estranei all'omicidio di Meredith Kercher. Pietro Maso, l'ex ragazzo della Verona Bene, a 20 anni uccise i genitori per impossessarsi dell'eredità. Erika e Omar, due nomi insoliti, due nomi che nessuno ha dimenticato, immobili nella memoria 10 anni dopo. In quel 21 febbraio, in quella villetta Schiera, uguale a tutte le altre, si consuma il massacro di Novi Ligure. Quest'immagine scorre sul video per settimane, i volti oscurati, lei Erika a 16 anni, lui Omar, il suo fidanzatino 17. L'attività delittuosa è diventata la traccia per una grande sceneggiatura che ha appassionato i media. È bello perché, a differenza di ogni fiction, a differenza di ogni serie di telefilm, a differenza delle grandi saghe della rappresentazione del delitto attraverso il cinema, attraverso la letteratura, il romanzo, la televisione, spesso ci sono degli aspetti talmente imprevisti o che convergono nel accreditare una previsione scontata nell'opinione pubblica già certa, ma che naturalmente nelle fasi processuali, nelle fasi di lettura mediatica, non sempre viene così palesemente rappresentata. Sto parlando del delitto di Perugia, l'assassinio della studentessa inglese Meredith Kercher, avvenuta in una villetta vicino alla città studentesca di Perugia, vicino a Piazza Grimana, dove è l'università per gli stranieri, città che conosco benissimo. Processo che ha avuto una grandissima copertura mediatica, che improvvisamente per una sentenza è cambiata completamente, cioè è cambiata completamente quella che era la sentenza. Improvvisamente le persone che erano ritenute innocenti dalla Corte d'Appello vengono nuovamente rimesse in dubbio questa loro innocenza. Questo riapre improvvisamente un grande capitolo, ma non soltanto su questo delitto, ma anche su tutti i grandi delitti di quali la estrema visibilità televisiva e mediatica non ha mai stata coerentemente un aiuto per ottenere chiarezza. Dei grandi delitti in Italia non si ha chiarezza, c'è sempre ambiguità, c'è sempre un elemento che li riporta in discussione, quasi ci fosse una sorta di oscuro disegno improbabile e surreale che debba mantenere viva l'attenzione, perché nella puntata successiva ci sia argomento per una successiva discussione. Vincenzo Mastronardi, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Vincenzo Mastronardi è uno psichiatra, un criminologo, ne abbiamo avuto spesso ospite la nostra trasmissione, è titolare della cattedra di psicopatologia forense presso la prima facoltà di medicina dell'Università di Roma Sapienza, è in uscita per sua cura e suo lavoro che è durato moltissimo tempo. Quanto ci ha lavorato per il dizionario? 8 anni. 8 anni, un dizionario criminale italiano, edizioni Newton Compton. Ma questa mattina è qua perché ha scritto Meredith, luci e ombre a Perugia. Partiamo, Mastronardi, da presidente della Corte d'Assise, al tempo Claudio Pratillo Herman, che aveva letto la sentenza di assoluzione per Amanda Knox e Raffaele Sollecio, dice: io li ho assolti, sfido chiunque a dire che ci fossero prove certe. Dice: c'è stata la sentenza alla Cassazione sulla quale lui non è per niente d'accordo. E i titoli sono: Amanda non tornerà mai, contro di lei una persecuzione, l'ennesima foto, non tanto della vittima, perché la singolarità di questo processo mediatico è che, mentre nei casi delle piccole Sare, Scazzi, di Yara, la vittima è l'iconografia più forte, la vittima, l'uccisa, l'assassinata, in questo caso ci si dimentica dell'assassinata. La presunta sgozzatrice, assolta dalla Corte d'Appello, ma è nuovamente ritornata in ballo dalla sentenza della Cassazione, diventa la vittima. Infatti c'è una foto di Amanda Knox con la sorella e la madre il giorno del suo rientro a Seattle. Sembra lei una vittima, piangente, lacrimosa, una sorta di pietas, la madre che l'abbraccia, la sorella che le tiene la mano. Ecco, qual è il tuo punto di vista? Ma chiaramente incredibile, ma dopo 39 anni di attività peritale, in trincea, con tutte le perizie possibili ed immaginabili, avendo assistito una serie di realtà omicidiarie, quindi avendo periziato una serie di personaggi noti alle cronache, mi sono reso conto che non ci si sente colpevoli pur essendo stati colpevoli molto spesso. Non per questo voglio dire che necessariamente dobbiamo considerare Amanda ovviamente colpevole, nel senso che sono sempre fino all'ultimo istante né colpevolista né innocentista, ma garantista appunto della verità, che venga fuori la verità. Voglio dire che un fatto è certo, non la vedremo mai più seduta come in tante immagini televisive dietro in un banco di imputati. Questo proviamo a metterci nei suoi panni e sicuramente la risposta è già implicita, è impossibile ipotizzare. Anche il suo ex fidanzato Raffaele Sollecito pare che sia dalle parti della Svizzera, l'area è anche quella di starsene prudentemente lontano. Probabilmente sì, questo non possiamo dirlo. Ci sono però persone che tengono appunto ad immolarsi purché venga fuori la verità, se sono realmente innocenti. Scappano, a volte appunto proprio evitano qualunque tipo di confronto nel momento in cui la verità potrebbe eventualmente nuocere, ovviamente. Questo voglio dirlo senza nessuna polemica, ovviamente. Questo processo che parte hai avuto? Io ho avuto il compito di periziare Rudy Guédé per una consulenza tecnica appunto di fiducia commissionatami dagli avvocati Biscotti e Gentile, che appunto assistevano. Io leggo una tua intervista, dici: Guédé resta il test chiave, finora non si è fatta giustizia, bisogna ripartire da zero. Difatti questo è quello che tutti quanti adesso dicono, ma che avevano già evidenziato allora a suo tempo. Rudy Guédé sa molte cose, sa molte verità, sa molte sfaccettature che non sono venute fuori o che non sono state evidenziate abbastanza. Questo è un dato certo. 800240024. Avete un punto di vista sui grandi processi rispetto ai fantomatici e fantastici, me lo dico con il beneficio della sopravvalutazione mediatica, delitti degli ultimi anni? Quale idea vi siete fatti? Che esista una giustizia vera, una giustizia nell'aula di tribunale, poi una giustizia raccontata attraverso i grandi processi televisivi, i plastici, gli inviati, le città presidiate da telecamere, ricordate a Vetrana, il grande set televisivo di Avetrana, e i pianti dei familiari, degli zii, dei nonni, e zio Michele, personaggio televisivo diventato una star, zio Michele che di fronte alle telecamere fa vedere con il cappio come ha strangolato la nipote, continua a dire di essere innocente, di essere lui il colpevole, e la cugina, e i pianti, e via dicendo. Vi siete fatti un'idea rispetto a dove sia la verità? In realtà la grande esposizione di ogni verità uccide proprio la verità, come la pensate? 800240024. Meredith Kercher, 22 anni, inglese di Croydon, sobborgo al sud di Londra. Per lei tutto finisce la notte tra il 31 ottobre e il 1 novembre 2007. Di lei rimarranno le immagini di quell'ultimo Halloween festeggiato in terra straniera con amici conosciuti da poco. La morte arriva con una coltellata alla gola, un omicidio poco chiaro che attira i media di tutto il mondo. È il 2 novembre quando viene ritrovato il corpo di Meredith sotto il piumone, scomparse le carte di credito, i due telefoni cellulari. A scoprirlo la coinquilina Amanda Knox e il suo fidanzato Raffaele Sollecito, che con lei hanno trascorso la serata e che saranno i principali imputati per la morte della studentessa inglese. Finiscono in carcere il 6 novembre, con loro Patrick Lobumba, tirato in ballo da Amanda. Abbiamo un ascoltatore, Pino, buongiorno. Buongiorno, senta, io intervenivo, vabbè, a parte il fatto la che veniamo derisi sempre da tutto il mondo ogni volta che qui succede qualche delitto, no? Nel senso che le indagini sono portate avanti nella maniera più allucinante e mai non si riesce mai a capire chi è poi realmente il colpevole. Ma a prescindere da questo, io non capisco anche il ruolo del ragazzo di colore che è in carcere. Questo qua si è beccato, mi sembra 16 anni, ha patteggiato, quindi solo lui realmente sa come stanno le cose. Lui poi è in carcere per concorso in delitto, quindi insieme a qualcun altro l'ha ammazzato. Ecco, ma il concorso in delitto con chi? Lui chi è che ha... Questa è la grande domanda e questo è il grande punto interrogativo. Ma allora capisce che veramente siamo sempre... Ma vediamo nei limiti che può farlo, perché è stato appunto perito di questo processo, il professor Mastronardi. Questi fumetti con mano, da dove vengono, professor Mastronardi? Dunque, questi fumetti vengono da un addendum appunto al libro Meredith, Luci e Ombre da Perugia, dell'Armando Editore. Vediamo, io li riassumo, che non so se tu puoi dire tutto, ma di cosa dice questa storia fumetti. Attraverso una storia fumetti viene data un'ipotesi rispetto a questo delitto, ipotesi naturalmente che si appoggia su quelli che sono gli atti del processo, non sulla fantasia. Il bozzettista è Francesca Sprovieri. Si vede Meredith e Guédé sul letto che amoreggiano, hanno un affettuoso scambio di effusioni. A un certo punto lei racconta a lui che è arrabbiata con Amanda perché pensa che le abbia portato via i famosi $300 che importa sempre gente strana a casa. A un certo punto Guédé si mette le mani sulla pancia, dice: mannaggia, ho mangiato il kebab, mi dà dei forti problemi intestinali, corre in bagno. Si siede in bagno, si tira giù i pantaloni, mette le cuffiette dell'iPod per sentire la musica, nell'attimo che sta mettendo le cuffiette sente suonare alla porta e sente delle voci in inglese di due donne che litigano e si rinfacciano, un discorso devono fare. A un certo punto lui si rimette la cuffietta, sente un urlo fortissimo, un urlo agghiacciante, forte, ma non potrebbe essere per forza un urlo di una persona che viene sgozzata, perché se uno è sgozzato ha poco da urlare. È un urlo che potrebbe essere attribuito al fatto che Meredith facesse arti marziali, era un'esperta, adesso non so se taekwondo o un'arte marziale del genere, quindi potesse un urlo di una persona che mette a punto una tecnica di difesa o di attacco. Si alza dal bagno, non fa nemmeno in tempo a tirare lo scarico, infatti lascerà le prove organiche del suo kebab malefico e saranno quelle che poi lo incasteranno. Mentre entra nella stanza, vede una persona di spalle che è Sollecito, gli tocca la spalla, Sollecito si gira, c'è fra loro una frase che dice, cosa dice questa frase qua? Negro trovato, negro accusato. Negro trovato, negro accusato, Sollecito esce, fuori della porta c'è Amanda, probabilmente lui dice Amanda che ha visto dentro una persona di colore, Guédé vede il cadavere per terra di Meredith e scappa via. Poi si vede Amanda interrogata alla polizia e dice: è stato Lumumba. Altro esempio molto singolare, accusa direttamente un altro ragazzo di colore totalmente innocente. Ecco, cosa puoi dire rispetto a questa ricostruzione che ho fatto dall'iconografia di questo addendum al tuo libro? Sì, sì, io tengo molto sempre al segreto relativo al nulla di quello che non puoi dire. Incontro peritale. Sai cose però, che se tu le potessi dire potrebbero chiarire molto. Molto, certo. Tenendo presente quello che risulta agli atti, da quello che risulta agli atti, sembra che Rudy, così come lui stesso peraltro ha dichiarato, sia soltanto colpevole di non aver assistito poi a posteriori Meredith. Lui dice: mi sento veramente colpevole, non c'è nessun tribunale che mi potrà mai assolvere, perché se io avessi avuto la forza di restare lì e di non essere intimorito da chissà cosa, io avrei potuto chiamare i soccorsi e avrei potuto salvare. In quanto tempo è morta Meredith? Ma lui non lo sa, perché poi dopo lui è scappata e lei era ancora viva. Lui è scappato e non era morta immediatamente. Non era morta, quindi era ancora viva, poteva ancora salvarsi. Essersi salvata. Ed era peraltro vestita. Quindi non è stata trovata. Non è stata trovata. Questo è agli atti, comunque. Questo è tutto agli atti. Quindi qualcuno l'ha spogliata e l'ha messa sotto qualcuno quel piumone. Qualcuno sembra che l'abbia spogliata poi dopo, a posteriori. Un'ipotesi quale potrebbe essere? Simulare un tentativo di rapina, di stupro? È chiamato staging, è chiamato cioè camuffamento della scena del crimine, ovvero sia tentare di invertire le percezioni, facendo in modo che chi poi dopo arrivi giudichi la scena del crimine come è avvenuta per altre Ma anche in maniera un po' rozza, perché il famoso vetro rotto, pare che i vetri fossero all'esterno della casa, quindi è stato mattonato dall'interno della casa. Esatto, come se la pietra enorme, grossa peraltro, che non poteva passare da uno spazio infinitamente piccolo. Se teniamo presente peraltro altro particolare, che le saracinesche in legno erano con il legno cosiddetto ingrossato, nel senso che per il freddo non si riuscivano a chiudere, quindi restavano sempre aperte, e restavano aperte per un 10 centimetri circa. Quella pietra di 3,8 kg non poteva passare attraverso 10 centimetri, quindi sicuramente è stata aperta. Quella villetta è una zona di Perugia molto una, è una specie di avvallamento, lo conosco bene, quindi come dicono i perugini a pagino, cioè è esposta tramontana, cioè è un posto umido in sé, è un posto umido. Sentiamo qualche ascoltatore. Patrizio. Pronto, buongiorno a tutti. Sì. Senta, prima cosa volevo sapere, visto che voi siete persone competenti molto più di me, com'è possibile che in un processo dove vengono portate delle prove, nel senso delle prove per quanto riguarda questo omicidio, è un processo lungo abbastanza tanto nei tempi italiani, come può essere che un giudice dà la colpevolezza di un omicidio a una persona, a due persone in questo caso, e dopo 2-3 anni un altro giudice dice che no, non è così? Ma questo accade molto spesso comunque. Sì, ma com'è possibile? O c'è un'incompetenza del giudice, o il giudice decide a per sé per quanto riguarda la sua coscienza, perché se delle prove sono schiette, le prove sono quelle, nel senso non è che si possono cambiare le carte. Lei ha perfettamente ragione. Quando entrano in gioco le perizie, chi porta il perito più forte? Provo a rispondere in questo modo, ovvero sia teniamo presente che ci sono stati dei momenti storici in cui è stata la necessità di trovare la prova provata, la pistola fumante, solo il DNA, se c'è il DNA, se c'è la pistola fumante, solo allora si può accusare una persona. Viceversa, ci sono stati momenti storici in cui abbiamo avuto dei processi accusatori, e quindi che hanno visto le persone finire in carcere anche se non vi era la pistola fumante. Ne vuole una, per esempio Cogne, lì a Cogne non c'è nessuno che ha visto appunto la mamma di Cogne uccidere il proprio figliolo, ammesso che sia stata lei. Ne vuole un altro processo, Marta Russo, proprio tutti processi fortemente indiziari. Parolesi, un altro processo di colpevolezza fortemente, quindi che si è giunti alla colpevolezza. Quindi ci sono dei momenti storici in cui le varie necessità giudiziarie oscillano appunto dalla necessità di provare assolutamente proprio qualcosa di certo, assolutamente incontestabile, e viceversa lì dove appunto meno male vige, non già come se lei ricorda per esempio anticamente c'era il famoso Maigret, che dalle fumose stanze usciva e diceva ha confessato, adesso la confessione non è sufficiente. Beh, più è chiaro che nessun imputato viene diciamo consigliato dal suo difensore di confessare. Esatto, di fronte esatto, ad ambiguità esatto, così esatto, nessuno esatto. più confessa. Nessuno confessa, e peraltro con il nuovo codice non di procedura confessare. Penale garantista molto di più che in qualsiasi altro stato. A questo punto, anche se tu confessi, devi ribadirlo poi in aula dinanzi ai magistrati. Non è valida la confessione. Anche Amanda disse mi hanno forzato a fare queste dichiarazioni. Esatto. Se noi prendiamo altri processi, ma per esempio anche il caso Pacciani, no? il mostro di Firenze, lì non c'è nessuno che in realtà ha visto, eppure furono accusate tre persone, Vanni, Pacciani e Lotti, no? Poi dopo chiaramente una volta deceduti non fu possibile più poi dopo riuscire a ricondurre al vero responsabile di questo reato, quello che si disse era il mandante, cosa che è rimasta nebulosa, però però abbiamo visto come quindi attraverso la storia si è oscillati dalla necessità di trovare la prova provata e altri processi invece in cui è stato sufficiente trovare i gravi precisi indizi, diciamo anche, gravi e concordanti, diciamo anche senza naturalmente accusare nessuno, no, è stato un processo in cui c'è stata una pressione mediatica fortissima, si è mossa Hillary Clinton su questo processo, non è che è stato proprio una povera ragazza abbandonata a se stesso, e sul piatto della bilancia c'era Rudy Guédet, figlio di nessuno, in più anche ragazzo di colore, quindi nell'opinione pubblica americana molto svantaggiato, d'altra parte c'era Hillary Clinton che ha dichiarato apertamente il suo punto di vista rispetto a questo processo. Carlo, sono peraltro testimone di una differenza tra come noi italiani difendiamo i nostri connazionali all'estero e come loro difendono invece i loro uomini o le loro donne. Ecco, fermati un attimo, perché c'è Calogero che mi sembra che proprio sia su questo punto di vista. Sì. È chiaro che la similitudine, anche se siamo in contesti diversi, fra l'episodio di Due Marò è stringente. Tutti dicono sì, adesso col piffero che qualcuno dirà Amanda torna a farti processare. Calogero. No, io volevo intervenire sul ruolo di Guédet, cioè non capisco due cose. Uno, come mai è stato condannato in modo praticamente definitivo senza che sia stato provato una sua partecipazione attiva. Potete riascoltare Melog in podcast su www.radio24.it. Melog, la realtà condivisa. Le indagini svelano la presenza di tracce di DNA di Meredith e Amanda su un coltello da cucina sequestrato a casa di Sollecito. L'impronta di sangue trovata sul cuscino appartiene invece a Rudy Guédet, 21 anni, ivoriano, che però scompare. Ritrovato in Germania, ammette la sua presenza sul luogo del delitto, ma anche la sua estraneità ai fatti. Era in bagno quando ha sentito un urlo, è uscito e ha visto due persone fuggire, un uomo e una donna. Intanto in Inghilterra la famiglia Kercher dice addio a Meredith. Nel 2008 arriva la chiusura delle indagini per i giudici Metz. È stata uccisa dai tre principali accusati. A ottobre arriva la sentenza di ergastolo per Guédet, condanna che sarà ridotta a 16 anni per gli attenuanti. Un anno dopo la Corte d'Assise di Perugia condanna Amanda a 26 anni di carcere. Raffaele a 25 hanno ucciso spinti da un movente erotico, sessuale, violento, scrivono i giudici. Dopo un altro anno, nel 2011, Amanda torna nella sua Seattle, Raffaele nella sua Puglia, perché assolti con formula piena. Sentenza. Professor Mastronardi, certo anche velocissimo un appello, che in un anno viene fatto l'appello e si risolve la sentenza, sì, secondo i tempi della giustizia italiana è anche stato fatto molto velocemente questo, no? Questo è vero, questo comunque non va a discapito. No, assolutamente, anzi, finalmente una volta tanto. Sì, finalmente sì. Una volta tanto. Se però vogliamo considerare questa velocità che possa andare, voglio dire che possa essere stato oggetto di un convincimento non totale di quelli che possono essere stati, cioè una evidenziazione di alcuni fattori e non la presenza invece di altri fattori quali quelli relativi al... Vabbè, mentre spegni il telefono parliamo, chiamo un ospite, professor Nello Boccia, sì. Buongiorno. Spenga la radio. Buongiorno a tutti i radioascoltatori. Sì. Senta, io volevo parlare di una condizione. Io sono un ex operatore carcerario di un carcere trattamentale per tossicodipendenti, ma già lavoravo da 9 anni come volontario nelle comunità. Una condizione di cui, secondo me, è completamente sottovalutata durante il processo, e questa è responsabilità prima del GIP e poi del pubblico ministero, è quella della condizione che poteva essere analizzata anche come sgravante, della facoltà di non intendere, di volere, perché non dimentichiamo che i due soggetti di cui si parla, e che per me che sono anche un piccolo criminologo, perché erano fatti come spugne, diciamo. Esatto, in effetti sotto un'overdose di anfetamine, soprattutto di cocaina, non si ha facoltà di intendere, di volere. Probabilmente il pubblico ministero, per non porre questo fatto che può essere analizzato come sgravante, perché poi l'assunzione era in ogni caso volontaria, anche se intesa come una droga, perché spesso le anfetamine vengono analizzate, soprattutto a livello sociale, come droghe prestazionali, insomma. Comunque è agli atti che le risulti questo fatto che loro fossero assolutamente sì. Infatti, perché se ne parla. È una condizione, è stata completamente sottovalutata nel processo, perché io non credo che in questo caso specifico ci sia stata una fumosità elevata. Purtroppo, per non porre questa condizione, alla fine nel processo di appello c'è stata questa assoluzione che veramente, insomma, non ha precedenti. Chiaro, c'è stata anche la pressione dei media, la condizione economica soprattutto della famiglia del ragazzo era una condizione, conoscenze e frequentazioni politiche che hanno schierato una certa stampa italiana e anche quella statunitense, ovviamente, anche se, come sentivo poco fa, la condizione di aggregazione sociale nei confronti di un americano quando viene giudicato all'estero la conosciamo, perché non è l'unica esperienza questa del delitto. Adesso non vogliamo dire questo ha influito sui giudici perché non ne abbiamo le prove, però diciamo che l'opinione generale pubblica era di compassione e quasi ammirazione per questa bella, ambigua, acqua e sapone ma dallo sguardo maliardo ragazza americana, sempre vista in mezzo a delle guardie, sempre quindi una figura metafora, quasi un'icona, capito? Lei tenera però ammiccante, sempre in mezzo alle guardie, trascinata, portata, piangente o a volte sorridente, con una gestione comunque dell'immagine spettacolare, con una capacità di stare davanti a telecamere eccezionale. Professor Mastronardi. Sì, io mi complimento con lei, guardi, perché questo è un settore che è un fattore che è stato sottovalutato. In realtà dobbiamo dire che l'unica intossicazione che può compromettere la capacità di intendere e di volere non è questa acuta o abituale, è soltanto quella cronica, cioè proprio veramente il tossicodipendente cronico inveterato di 10-15 anni di assunzione. Che non era il caso dei droga. Due ragazzi. Non era il caso dei due ragazzi, quindi vado a fugare, pur complimentandomi con lei, vado a fugare questo interrogativo. Perché, sì, ma mi permetta. Prego, prego, prego, anzi, dica. Da 4 anni mi occupo soprattutto di dipendenze late come volontario. Io ho sotto cura adesso 6 persone perché faccio parte di un'associazione che si occupa di dipendenze, insomma tutto tondo. Sì. Ho praticamente quelli che gli ammalati di gioco d'azzardo, di macchine da sala, certo. Essendo io poi nel gruppo il più formato tecnicamente perché sono ingegnere fisico, ma ho la grossa esperienza anche di informatica. Sì, io sì. Le assicuro che per chi conosce i meccanismi, se vogliamo, per me, io ho scritto un libro. La stiamo perdendo, però. La stiamo perdendo, sì. Purtroppo. Sì. Allora, dicevo, ecco, per chi ha esperienze di trattamento sa che anche la prima assunzione di cocaina determina una condizione biologica in cui la psicoattività della sostanza crea un'aberrazione totale della sensibilità. Però, non ho alcun dubbio, però molti hanno difficoltà a comprendere come siamo responsabili tutti noi se dopo essere andati in discoteca poi beviamo e ci mettiamo alla guida. Cioè nel momento in cui ci avviciniamo alla droga oppure all'alcol siamo comunque noi i responsabili, non però siamo... riportiamola nel fatto. Allora, la sintesi è: questi stranamente nella vicenda processuale, nella sentenza, non è stata messa in una luce forte il fatto che loro fossero comunque sotto effetto. Il dottore, l'interventore, dice giustamente perché il magistrato o chi per lui temeva che si potesse giungere alla non colpevolezza. In realtà fugavo queste ansie comunicando che a livello psicopatologico forense può essere considerato non imputabile chi ha la cronica intossicazione. Quindi anzi, è una circostanza aggravante, non attenuante. Salvatore da Catania, sì. Salvatore. Sì, buongiorno. Senta, io dicevo, come mai c'è la macchina della verità non se ne parla? Lei guarda troppi telefilm, Salvatore, la macchina della verità. No, telefilm, scusi, e poi chiudo. Telefilm, proprio per questi telefilm siamo arrivati a queste condizioni. Se 20-30 anni fa, mi ricordo, si parlava tanto di questa famosa macchina e ora si arriva, diciamo così, a scavare, a brancolare nel vuoto, nel buio. Perché si dicono quelle cose? No, lei ha detto una cosa molto giusta, però. Vincenzo Mastronardi, esiste ormai una rappresentazione della giustizia, soprattutto della perizia, dell'analisi del DNA, del teatro del delitto, talmente fantascientifica che poi il pubblico che segue questi processi in televisione pensa che tutto questo corrisponda a una verità assoluta. Assolutamente sì. Io per rispondere innanzitutto al signore le posso dire che ormai gli è stato chiarito che noi abbiamo due metodi per ingannare la macchina della verità: muovendo il dito alluce del nostro piede destro o sinistro, creando così degli artefatti tecnici per cui dice no, è la macchina che non è stata in grado di... Se si muove la luce si inganna. Seconda cosa è la tecnica Stanislavski, cioè la recitazione. Sappiamo bene come un buon attore riesce a piangere, a ridere, a convincere se stesso della bontà in cui crede in quel momento storico lì, e se noi convinciamo noi stessi di credere in quello che stiamo asserendo, a questo punto gabbiamo la macchina. Nicolò, buongiorno Nicolò. Buongiorno, saluto a tutto lo studio. Io chiamo da Firenze, ho 28 anni e volevo solo esprimere un attimo il mio stupore per questo caso, perché io mi sembra un po' impossibile che, voglio dire, un omicidio che si è svolto in una casa, quindi non è che si è svolto, voglio dire, al mercato di Firenze o al mercato di Napoli, in una casa fra quattro mura con quattro persone che, fra l'altro, parliamoci chiaro, sono ragazzotti di 27-28 anni, più o meno come me, con la mia età, che tra l'altro erano anche abbastanza strafatti, da quanto sembra. Mi sembra veramente impossibile che con tutti questi esperti, perizie e quant'altro, non si riesca ad arrivare a una soluzione. Si rende conto, Nicolò, che la maggior parte dei delitti televisivi di cui parliamo negli ultimi anni sono tutti rappresentabili in un plastico, quindi tutti rappresentabili in un ambiente chiuso e limitato? Eppure è così, professor Mastronardi. Sì, dunque noi dobbiamo dire questo, che esistono delle verità reali, delle verità processuali e delle verità invece giuridicamente accertate. E non sempre i piani corrispondono, anzi ho come la sensazione dopo appunto, ripeto, i 39 anni miei di attività peritale, che realmente c'è sempre qualcosa che sfugge, per cui non ci illudiamo di dover scoprire sempre la totale verità su ogni cosa. Bastonati, tu mi hai detto prima una cosa che mi ha molto sorpreso. A sentire la forte, potente copertura mediatica, sembra che in che tempi siamo arrivati? Sembra che si uccida una persona ogni secondo dietro l'angolo. Ma rispetto alle statistiche, ai dati certi, negli ultimi decenni qual è stato, diciamo, l'incremento o la decrescita dei delitti in Italia? È semplicissimo. Il picco lo abbiamo avuto il 1972 con 1780 delitti. Adesso invece, da una decina d'anni in qua, quindi dal 2000, diciamo, sino al 2012, sino al 2011, abbiamo i dati ultimi certi, abbiamo soltanto 650, 600, 620, quindi molto di meno, cioè oltre 1000 delitti in meno. Quindi l'evidenziazione mediatica, che mentre prima, se voi ricordate, il delitto della Cianciulli 1946 era una, la saponificatrice di Correggio, era l'unica, e poi erano pochi i delitti che venivano evidenziati all'epoca, al giorno d'oggi c'è una cassa di risonanza, c'è un'amplificazione, però sono meno. Possiamo dire che sono cruenti, ma molti dicono di sì, io non credo alla cruenza che ci sia oggi rispetto a prima. Il delitto è delitto, semplicemente raccontato con maggiori particolari, le foto, si partecipa ai sentimenti, agli stati d'animo, alla criminodinamica, alla psicodinamica. Soprattutto alla i presunti assassini poi arrestati per essere assassini diventano personaggi da talk show, quindi li conosciamo, li vediamo parlare, piangere, gli telefoniamo e rispondono al telefono. Melog, la realtà condivisa. Voglio solo ringraziare tutti quelli che hanno creduto in me, che mi hanno difeso e che hanno supportato la mia famiglia. Torna a casa accolta come una star, Amanda Knox. Ha una vita da riprendere in mano, tanti amici da riabbracciare, mille editori che le ronzano intorno. Raffaele Sollecito, che insieme ad Amanda Knox si è fatto 4 anni di carcere con l'accusa di aver ucciso Meredith Kercher, salvo poi vedersi riconosciuto che contro loro due non c'era neppure mezza prova, ora racconta la sua verità. Ammette errori e leggerezze, come il non essere in grado di ricordare molto della notte dell'omicidio, passata in casa a fumare marijuana, o quei baci con Amanda fuori dalla villetta del delitto, immagini che avrebbero fatto il giro del mondo, attirando sui due fidanzati anche le attenzioni degli inquirenti. Proprio alla polizia, Sollecito non risparmia critiche, si dice vittima di un complotto per un omicidio che si spiegherebbe come un furto finito male, messo a segno da Rudy Ghede, l'unico effettivamente che aveva lasciato tracce inconfutabili sulla scena del crimine. Ma nel suo libro Sollecito ripercorre anche la storia d'amore con Amanda, dal concerto dove si conobbero appena una settimana prima del delitto al primo bacio. Poi... Vedete, questa è la conferma di quello che ho detto in apertura. La vicenda amorosa, passionale, lievemente morbosa, si sovrappone completamente al fatto che una ragazza una notte sia stata sgozzata a casa, in casa dove che era normalmente frequentata dai suoi amici. Ho in studio, ricordo, il professor Vincenzo Mastronardi, che è un criminologo e psichiatra che insegna psicopatologia forense all'Università Roma La Sapienza, che è autore di un libro insieme a Giuseppe Castellini, editore Armando, Meredith, Luci e Ombre a Perugia. In questo libro leggo addirittura e vedo anche le perizie calligrafiche che hai fatto. Mm-hmm. Ecco, dalle perizie, molti mi chiedono, ma l'esame tossicologico non ha dato nessun tipo di risultato. Cosa è venuto fuori dalle perizie calligrafiche? Per il valore possono avere, poi ci dici qual è il valore che hanno. No, ormai io ho tormentato tutti i magistrati in tutta Italia che mi hanno fornito tutte le sentenze, addirittura sulla capacità di intendere, di volere dalla grafia. Quindi ha una validità ormai analogamente ad un test universalmente riconosciuto, quali il Rorschach, eccetera. Lì, ovviamente, garantendo una privacy e quindi evitando qualunque tipo di discorso di altro genere. Però sono pubblicate, le vedo avanti, grafia di Sollecito, sessualità, eccetera. Quindi ho evitato comunque di parlare di qualsivoglia, però ho evidenziato determinate caratteristiche di personalità. Per Amanda è venuta fuori la sua così, manipolatività e teatralità. Capacità di manipolare. La capacità che, di... Che non è un delitto, avercela. Non è un delitto. Molti non è un aggravante. Molti ce l'hanno, quindi anzi... Uno può essere innocente e essere bravo a usare la sua immagine. Invece di Sollecito? E di Sollecito è appunto questo ragazzo che stava lì per formare la sua identità. Sembra la calligrafia di un bimbo, c'ho davanti. Sì, un ragazzino rispetto alla sua età, sì, insomma, ma non vuol dire nulla, non sono io che vuol dire posso... nulla questo, assolutamente. Comunque è venuta fuori questa struttura di personalità in formazione, ecco, alla ricerca di chi sono, cosa voglio e dove vado. Ecco, vedo che sta appassionando il nostro pubblico molto quello che avevi detto, che basta muovere gli alluci per ingannare la macchina della verità, e molti mi dicono, ma il pentotal, l'ipnosi, altri sistemi. Rispetto alla tua esperienza nei grandi delitti, ad esempio il delitto di Cogne, che è il delitto di delitti, è il primo di questa catena di delitti mediatici, la mamma che è andata da Bruno Vespa, il plastico, il figlio, il secondo figlio, l'incidente probatorio inventato dal marito con la tuta mimetica che mostra tutto, è stato fatto di tutto. Anche lì furono messi a punto dei test di analisi. Come si fa a ingannarli? Qual è il valore reale di questi test? Dunque, c'è un test recentissimo che non è la macchina della verità, ma è il test della verità, che i neurofisiologi hanno messo a punto a livello internazionale. L'attendibilità è del 92%, quindi altissima, non è alta ma altissima. È stato fatto in tutti questi processi? È stato fatto per la Franzoni, è stato fatto in ultimo ed è venuto fuori, ve lo comunico perché non è stato mai evidenziato abbastanza, è stato fatto dal collega Sartori dell'Università di Padova, ed è venuto fuori che sicuramente lei non ha ricordo di quell'accaduto. Non dice che è colpevole e che ha rimosso, né dice che può non essere stata lei. L'uno e l'altro può essere, cioè che lei comunque è sicuro, non mente, non ha realmente ricordo. Cioè, di il nostro che io può resettare un avvenimento dalla nostra memoria o sovrascriverne un altro che ci siamo noi allucinati. Dunque, io ho visitato in regime di convenzione appunto tra la mia cattedra cattedra è Castiglione delle Stiviere, dove c'è l'OPG, l'ospedale psichiatrico giudiziario, che cura le varie figlicide. Insomma, ho esaminato diverse mamme che hanno ucciso i figlioli. Una di queste mi è rimasta particolarmente impressa, perché aveva ucciso la sua figliolina e non ricordava niente, non ha ricordato nulla per 4 anni, ha rimosso per 4 anni. 4 anni dopo, in sogno, poi ha ricordato l'accaduto, o ha ricordato che con un filo di citofono giocattolo aveva strangolato della sua figliola e che poi dopo si era tagliata le vene. Era sotto l'effetto di droghe, di sostanze varie, cocaina che assumeva. Quindi, ecco, molti in questo momento, Pastorardi, stanno riprendendo in mano l'idea del famoso delitto di Montecchia di Crosara, Piero Maso, che con degli amici ha ammazzato i genitori per biechi motivi di denaro. Tu hai seguito quel caso? Sì, sì, fui io appunto il perito. Anche a fine anni 90. Sì, io fui io il perito che poi dopo il magistrato di sorveglianza incaricò appunto di effettuare la perizia con il collega che impressione Maffei ti ha fatto? Qual è il dato che hai tirato fuori da quella cosa? Ma il dato molto emblematico, sempre con la riservatezza che ho sempre verso tutti i casi peritali naturalmente, ma volendo cogliere un dato estremamente interessante, ci sono due peculiarità che mi hanno colpito, che ci hanno colpito. Appunto, per esempio, la domanda: ma scusa, ma quando la tua vita ha preso una direzione e non un'altra? Dice: quando sono andato dai preti, volevo restare con loro, ma mi hanno cacciato via dicendomi che mentalmente non ce la facevo. E da quel momento in poi mi sono lasciato andare in tutte le direzioni possibili e immaginabili. Questo è quello che è venuto fuori e agli atti e nella perizia, agli atti del processo, eccetera. E poi anche la banalità del male a volte, ovvero sia quando, ancora prima di decidere quindi chi uccidere, ci fu un dialogo appunto tra lui e il suo luogotenente. Si dice: scusa, chi ammazziamo? Ammazziamo i tuoi o i miei? No, ammazziamo i miei, perché se ammazziamo i miei ci si beccano più soldi. Di più. Grazie Valerio Mastolardi.